La festa si tiene domani, sabato 21 ottobre, negli spazi del centro di accoglienza di Villaldini, in cima a Via dell'Osservanza. C'è uno spiazzo giardinetto appena si entra e lì saranno allestite una console dei microfoni, perché la festa è stata progettata e appunto curata da alcune persone che vivono nel centro, insieme a me e un'altra persona della nostra associazione che si chiama Snark, con cui curiamo pratiche di creazione collettiva. Sostanzialmente ci saranno un DJ set, degli interventi di rap e di teatro, ed è quello che è uscito dai mesi di lavoro che abbiamo fatto insieme, appunto, con questo gruppo molto allargato, insieme a una ricercatrice del Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna e alcuni operatori della struttura. Quindi un lavoro molto, molto distribuito, molto vario, diciamo. Sì, infatti leggevo che avete iniziato già da luglio a preparare questo evento. A luglio abbiamo iniziato i laboratori, abbiamo iniziato cercando di conoscere un po' le capacità, le esperienze e anche i desideri, molto banalmente, cose che ci interessava imparare, come ad esempio mettere la musica, fare rap su dei brani strumentali, sperimentare dei linguaggi teatrali, eccetera. E siamo partiti da lì, ci siamo fatti ispirare dalle esperienze di ciascuno, guardando moltissimi video, ascoltando musica e non solo, e pian piano creando dei gruppi di lavoro. Invece, parlando degli obiettivi, ovviamente una festa e gli obiettivi di una festa, il primo è sempre divertirsi e aggregarsi, ma è anche una festa in un ambiente un po' particolare. Qual è l'obiettivo che anima questa festa? Per la festa noi arrivavamo con un'idea, appunto, come ricercatori, come persone impegnate su questi temi, ci interessava capire se poteva essere un'occasione di sperimentazione di nuove pratiche all'interno di un centro, ma anche un'occasione di incontro e di autodeterminazione, un'occasione per esprimere la propria esperienza, le proprie capacità, e farlo oltretutto in un contesto che è di incontro, quindi una festa non solo per chi vive lì dentro, non solo per chi vive attorno, ma anche un'occasione di conoscenza e di magari sorpresa rispetto a capacità, pratiche, eccetera. Questo l'abbiamo fatto studiando come di solito si celebra e si fa festa nelle comunità della diaspora messicana negli Stati Uniti, in Sudan, nel Sud Italia. Ci hanno chiesto quali sono le ragioni per cui di solito si fa festa, e possono essere chiaramente legate a un matrimonio, a una pratica politica, alla storia di un posto, e abbiamo cercato di discuterle e mischiarle per arrivare a una festa che si chiama L'Unione fa la forza, perché questo è venuto fuori già all'inizio, ma soprattutto alla fine è stata un'occasione per collaborare tra persone che vivono fuori e dentro il centro, ma anche tra persone che vivono all'interno del centro ma che non avevano avuto ancora delle occasioni di confronto e di lavoro condiviso. Un'ultima domanda: dove potranno trovare i nostri ascoltatori informazioni riguardo alla festa, se ancora non ne avessero, per maggiori chiarimenti, per capire come arrivare e quant'altro? Allora, la cosa più semplice è il sito della cooperativa che gestisce il centro, Arca di Noè. Il loro sito è www.arcacoop.com, e lì c'è la notizia della festa, e da lì si trovano i link appunto a tutti gli altri materiali online. C'è l'evento Facebook che si chiama Villaldini in Festa, e lì ci sono alcune anticipazioni, foto, c'è un po' di musica, così ci si può fare un'idea della festa, che poi è domani dalle 11 alle 18, ma il grosso delle cose succederanno tra le 11 e le 3, se vuoi questa anticipazione. In cima a Via dell'Osservanza, appunto, da San Mammolo si prende per Via dell'Osservanza, e probabilmente succederanno anche delle altre cose, quindi consiglio di seguire l'evento Facebook, perché ci saranno un po' di anteprime nelle prossime ore anche di attività ulteriori.